sempre rispetto a quindi c'è sempre più libero, no? Questo qua è diciamo pulito, adesso è pulito, diciamo che oggi c'è meno corrente, meno propagazione. Sembrava che volesse piovere, che alcune punti non è so piove, invece niente, c'è il sole. Domani invece ha portato pioggia. Aspetta, forse c'era qualche altro giorno in più, a parte, vabbè, stamattina le sere hanno aperto i rubinetti, però mi sa che c'era qualcosa lì, in quei giorni. Devono finire quello che hanno iniziato e avere insomma di fare tutto un po'. Io l'acqua ce l'ho e non mi manca, e c'è il serbatoio che c'è la cisterna, non so che la cisterna, che è un palazzo, poi siamo anche fuori, dobbiamo più di quel campo. Ma è

cosa gli andiamo. Dopo l'hanno mangiato, e sono lasciato il cuore a forza schiacciata. Quando ho preso questo lineare qua, no? C'era la possibilità di 10 ampere all'interno, però nel cavo di alimentazione possibile non ce n'erano. Era la 10 ampere, allora, ogni tanto faccio un bar laterale, ho preso di fare una cucina pure per provare, no? All'interno sono fatti un cielo per possibile, sono tutti su parte. No, e poi sì. Allora, siccome ce l'avevo, no? C'erano anche le cose, le forza possibile, qualcosa su funzione solamente, c'era anche forza possibile, quelli forza possibile, quelli da auto, cioè presenti quelli bianchi da auto, ecco, ho messo quelli là, da 15 ampere. Vabbè, ho provato tutto, e nuovamente mi parte il possibile da 15 ampere. Quando sparava. Non è finita, perché poi l'ho cambiato, ne ho messo un altro da 20 ampere. Allora, il bar laterale ho fischiato, allora adesso va bene, mi sta dando 200 watt. Però il bar laterale, quando ho dato il fischio, no? Per il picco, sono arrivato a 400 watt nel bar laterale. Partivano avanti così bene, da 20 ampere. Perché non credo, 400 watt. Mi sembra che possibili in quei casi la devi mettere più grossa un po'. L'altra mattina sono uscito e dai balla, guarda, se parte anche questo, se parte anche, allora ne ho preso due, ne ho preso da 30 ampere e ho messo da 30 ampere. Adesso vediamo cosa dice, cioè vediamo, ho già provato il vado laterale, però senza fare il fischio vado tranquillamente a 300 watt il vado laterale, perché diciamo che va bene. Se facciamo il fischio, se arriviamo a, perché poi c'è l'assorbimento che fa paura, c'è un assorbimento che io sono arrivato quasi a 50 ampere di assorbimento, ti dico io che sta scaldando, ma lo voglio vedere a quanto arriviamo con questa, perché così l'ho portato così tanto schiacciata, non l'ho mai fatto, lo sto prendendo con 5 watt, non lo voglio prenotare di più, ma va bene così. Adesso vediamo cosa dice. Ancora non ho messo la quarta, sta andando a 150, però senza potenziare il Mike Gain, perché sto a minimo. Mike Gain sarebbe il microfono, il pilotaggio, lascio sempre alle ore, cosa abbiamo fatto? Alle ore 9 l'abbiamo, io sono lo lascio alle ore 9 per pilotare, mi sta dando poco più di 200. Alle ore 9 l'abbiamo lasciato, sì. Ma 9 esatti, è tutto che avevamo fatto quella prova, però sono in terza posizione, non in quarta, capito? Se per caso in quarta mi serve di più, potrei aumentarlo, no? Girare di poco la potenza dell'apparato, pilota di più, però ricordati che poi viene fuori quel difetto, no? Di pilotaggio minore, ti dà quel ronzio, quella vibrazione, non è quel rumore che usciva quando aumentavi, non mi ricordo adesso. Tipo gracchiave o roba del genere. Gracchiava, se aumenti il pilotaggio gracchia. Che tienilo sempre così. Infatti lo tengo sempre così, perché quando vai in manda laterale cosa metti? USB? Sì, il primo, aspetta, ho commentato ancora. Sì, il primo e trovo per piacere USB formatore USB. Ma anche per me se vado in USB aumenta il doppio la potenza, mi sembra, per lineare, perché devo mettere anche io il tasto USB allineare. No, allineare c'è solo, c'è scritto SSD e basta. Però ho il senso, perché non sono in USB, dove sento, se vado in SSD lo devo accendere. Adesso la posizione del tastino è in AM, no? AM FM. Quanti effetti, se non c'è scritto però fa sempre effetti. Poi su qualcuno che ci va in parte laterale. Però devi cambiare anche il suo baracchino. E ricordati sempre di tornare nuovamente in AM, tipo lineare. Sì, però la potenza in USB aumenta, di brutto, altri ricordi ne avevamo parlato. Vabbè, sì, aumenta, ma non si ricorda tanto, Siamo un po' attenti, fatto anche qua. Qua in banda laterale il baracchino mi dà un bel di base, ma un bel mentre un tasto di brutto, perché la potenza in banda laterale io non la posso regolare dal baracchino e parte subito a troppa, capito? Parte subito, non so quanto c'è, comunque sto parecchi vatti di pilotaggio, ecco, diciamo. Boh, vabbè, dai. Se non senti più, vuol dire che è partito tutto qua. Non so, ho capito, così potete scrivere a me in banda laterale, se vado, perché se tu che fumate mi dà problemi alla bobina dell'antenna. Sì, massimo è 300 watt la tua antenna, la mia invece massimo 500, però io ho detto già adesso di sotto tranquillamente. Diciamo che anche AM 300 watt non fa niente, ma laterale anche se mi da 600 non fa nulla, perché tanto non è una potenza fissa come in AM, ma intermittenza, alternata. Sì, subentra quando sta modulando. Come il PC. Adesso non voglio fischiare, ma no, fischio e mi dà di 300, siamo già 20 ampere di assorbimento, se no solo in AM, sono a manetta, sono solo in AM, sicché se faccio un laterale qua e si spacca tutto qua. Sta qua a me, sta arrivando in sala 9.30 e non devo allungare il display per vedere a quanto arrivi. Ma ti preso il mio, ho dato baracchino, se lo rompiamo, bene va. Sì, li mettiamo vicino e vediamo quando arriva poi i picchi positivi. Ok, dai. Ma io ho questo pulsante azzurro. Che non lo fa tranquillo senza disturbare, alla fine si sente bene. No, non ci sente niente. E adesso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, adesso si sente? Oh no, ma cosa c'è da fare? Primo baracchino. Il rometro c'è scritto. Se è premuto a Mugi, se non è premuto è Bitmom. Quello lì è quello del coso, del AVG, quello del picco. Del rometro, va bene, del rometro. Quando tu lo scacci, ti dà, quando lo muovi ti dà il picco. Sì, ma il rometro che non ce n'è. No, perché anche Roger Wittich, no, quello è nel baracchino. No, nel baracchino mi sembra che l'avevo eliminato, cioè eliminato nel senso aggredito. Ah, no, non lo so, no, non si sente comunque, non ce l'hai. Cappa, ogni giorno sto imparando sempre cose così finali. Io quando parlo con te vedo che mi dai delle buone indicazioni e cerco di correre anche per esempio il collo ce l'ha devo toccare adesso, lo metto con il mio su Power e vedo che già sta funzionando bene la misurazione della potenza del lineare. Lascialo sempre lì, ma non ti disoccare. Io una volta che ho controllato la stazionaria basta, non devo stare lì tutte le volte a controllare i stazionari, non mi interessa, capito? Mi interessa più la potenza in uscita che il resto. E boh. Ok. Però io c'ho anche un terzo pulsante. Ah, che? O ancora un altro? Cosa serve quello? Allora, sul terzo, che è un pianeta, sta lì oscendo, c'è scritto RES, una posizione. La seconda posizione c'è scritto FWD, e in questo ramasso c'è scritto OP, però in grande c'è scritto POWER. Cosa vuol dire? Abbiamo già parlato, il POWER è quella potenza in uscita del lineare oppure del baracchino. Quando tu metti NFWD indica la potenza in uscita. REF sarebbe stop le stazionarie. No, quando lo metto il pezzo alle resta, quando la metto a OP, che sotto c'è scritto POWER, e spegne anche la luce, per i processi di provo a metterla in REF. Prova. 1, 2, 3, non REF. No, in REF mi sta dando solo probabilmente per stazionare 1 e 2. Adesso lo controllo io, per te. Pronto, sta leggendo. A voi abbiamo le 4. Scappa, io arrivo a 150. Adesso arrivava a 1 e 2, 1 e 2 e mezzo il stazionario. Invece adesso lo metto a 100, anziché in resto, a FWD, e mi sta dando la potenza del lineare 1 e 150. Alla presa 1 e 3, 1 e 2, sì, 1 e 3. Lineare attaccato però, lineare attaccato, questa è un entrè, sapere non è niente, due utili. Allora, quando devi misurare il stazionario va in calma, adesso sta fischiando, aspetta una volta. Quando devi misurare il stazionario va in calma, sposti cosa, poi regoli la controscala, poi va in posizione REF e ti dà, e ti indica gli stazionari dell'antenna. Ok, c'hai 1 e 1, va bene. Adesso con lineare attaccato in posizione, questa posizione mi sta dando 1 e 2, di solito mi dà 1 e mezzo, 1 e 1, senza niente di cerco la potenza solo dell'apparato. Sì, perché bisogna mettere l'antenna con la potenza dei lineari, ma questo è un casino e boh. Qualcosa ci voleva un accordatore d'antenna, così ti accorda l'antenna per quella lineare attaccato e non c'è un... Guarda, a me mi dà 1 e 3 che va benissimo, per me va anche bene, portate devo subire 1 e 5 eccetera eccetera. 1 e 3 per me va benissimo. Ed è sì, anche per me va benissimo, 1 e 2, 1 e 2 e mezzo, non di più, a 3 non ci arriva con 150 watt. Avevi diminuito a 9,20 i conflitti, 9,30, la radio è sempre ultima. Anche io ho toccato la temperatura, ma non più di tanto, è normale, soprattutto sul lineare, appena appena qualcosa sull'apparato. Ma c'è proprio quel casino. Ho sentito anch'io ora, l'ho sentito. Allora, Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io letto tanto Italia, no, io letto, vabbè, non è che poi è andato, è più alto, non era così, è quello che non è così, che scrivevo qua, questo che fa, fa, posso portarlo un po' perché così, e diciamo, se l'hai incorregolato, l'ultimo passaggio del fatto, un po' bravo, che non adesso lo so, ma sì, devo prendere due piello lì da un vicino di altro versante, se sì, però vediamo, devo fare una persona nel fronte e far concludere il mediatore, altrimenti me lo devo domani, così è sabato, che sto sempre, dopo domani mattina con più piede e mi sera. E faccio l'operazione e poi lo piatto e si va a prova. Ma così abbiamo finito, abbiamo finito con questore, basta, basta partire, basta non so qua, non so assolutamente, basta, se ne è pure, no, no, altrimenti non ci vuole nulla, questa cosa è più grosso, più commutatore, quello che ti ha dato a quello, fino a 50 cavalli. È buono, quello che ho io non lo so quanto arriva, ma penso che sia sui 290 o 300, non lo so, lo dicendo tu, non io, io ti dico 290, che è caso, il tuo scende fino a 590, hai guardato? Allora sono contento, per due fulmini, perché solo due barattini può alimentare da quella testa. Sto guardando tutto il tipo che ha detto, bravo, se ne è davanti, quel mio è caldo, non a terra ma quasi, perché l'ho saltato, ho preso la piede, ho fatto abbandonare, che modale, poi la portiamo. Allora, domani, se vuoi, non mi sono libero, che ora? Allora che vuoi tu, questo, tanto io partito sempre libero, sai, ancora, poi pian piano ho vicino a piedi, alla fonda, non so come si chiama, con che piede, poi in caffè, qui nella piantetta che fa comune della Longinica, e poi tu mi dai un orario. Ma noi lo facciamo anche, la piantetta, ma qui la partita, poi la fonda, la zona, se non so questo è tutto, va bene. A me va benissimo, se va bene anche a te. No, perché è visto che passiamo tutti lì, anche quell'amico mio, Vociane, che c'è da sposto, poi tu passa lì. E questo è poi trovo dentro le malviti, fai la chiacchierata. Ho provato a partire in Cefraiera, due che lavoravano con la foto dell'immagine, anche uno era un capoturno, Giovanni. E ci fa la chiacchiera, tu ce ne vai. Va bene, dai, non ti chiede la scuola, però tu mi chiede come la chiede, dai, se vuoi mi chiamo a te, e scappa positivo la vita, così con la manifera, dopo pranzo, qua, c'è lo stantone, e stavo dicendo, nel mediatore, ma ci sono delle resistenze, e quello c'hanno questo limite di mano. Allora come fa a resistere questi master? Abbiamo detto che se tu ne hai uno che non c'è il prodotto, non veramente più robusto. la meglio soluzione che però I'm going to go to the hospital. bellissimo, tanto va bene alle Thank you. Attenzione, canale 10. Allora, hola, hola, hola. C'è qualcuno su 10? Hola. Attenzione sul canale 10, cambio. Attenzione 10. Io sveglia, sveglia ragazzi. C'è qualcuno sul 10? Hola. Hola, attenzione 10. CQ10, c'è qualcuno su 10? Attenzione 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, CQ canale 10. Hola, attenzione 10. 12, 12. Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Vabbè, sto preparando la cena, vai. No, ho chiamato prima al 525, non c'è nessuno, nel ponte non c'è nessuno, ieri ho fatto una bella chiacchierata con quello di Oristano, ma oggi non c'è nessuno, ero in HF, facciamo vedere se c'è qualcuno qua. Va bene, dai, buona cena, io ho mangiato un panino veloce, non avevo tanta fame, dai. Vabbè, però bisogna fare. Ascolta, quel rumore non c'è, vero? Completamente la piazza di sotto del 60 tutto oscillato, quello che era dentro l'armadio tutto pulito, è rimesso a posto, tutto ok, perfetto, adesso non ha nessun problema e deve tenerle bene queste. Molte volte è meglio dargli un po' di quell'olio di vasellina sopra, che tanto è isolante, non tocca niente. Io lo usavo per la roba nautica quando c'era il salino che rovinava tutto, gli davo una mano sopra e in tutte le parti dove c'era contatto e non ho mai avuto più problemi. Lo so, però evidentemente questo è rimasto troppo fermo, tutto smontato sotto, tutto pulito con la trilina, l'ho fatto ben asciugare con la tua passata di spray per contatti, l'ho richiuso e vedo che sta funzionando bene, eh? Sta rispondendo bene. Ok, vabbè, dai, ci aggiorniamo domani. Passo in QRX, anzi QRT, perché adesso mette fornelli, mia moglie non è che sta molto bene, quindi metto io, facciamo qualche cosetta veloce anche qua, dai. Ok, la modulazione va bene? Perfetta, come al solito, la tua senza nessun problema. Dai, buona cena, buon tutto, poi magari ci sentiamo domani se capita. Ciao, ciao. Ascolta, ma domani mattina di là sali? Molto probabilmente, devo fare cosa prima? Se non faccio tardi, devo portargli roba poi all'amico nostro. Va bene, dai, allora già ci vediamo domani mattina. Ehi, ciao, ciao, ciao. Ascolta, se passi in officina, mettiti in macchina quel cartoncino. Devo fare adesso, mi metto un pezzo, un appunto per ricordarmi, non so, me ne dimentico. Ti aspettavo stamattina, non mi sei giunto, vabbè, però mi metto un bigliettino così domani mattina quando entro in officina lo prendo. E non è così urgente, no, mi sono dimenticato, devo accompagnare mia moglie a fare una visita stamattina, alle 11 ne siamo usciti che era la luna. Dai, già ci vediamo domani mattina, se ti ricordi va bene, se no non ti preoccupare, me lo ritiro lunedì. Ciao, dai, ciao di nuovo, ciao ciao. Ciao, ciao Roberto.